balcone annesso appartamento, la macchina nuova e l'attico nel centro, un'azienda fallita ma quotata in borsa, una squadra di calcio che vince ogni coppa. Ma il problema, non ho niente da fare, tutto il giorno a comprare, comprare. Io profeta del moltiplicare, mi piacerebbe ogni tanto amare senza pagare. Giochi la villa al mare con annessa appartamento, la macchina nuova e l'attico nel centro, un'azienda fallita ma quotata in borsa, è una squadra di auto che vince ogni corsa. C'è anche una villa al mare, ma è di papà. C'è anche una macchina nuova, ma è di papà. La donna bella e bionda, ma è di papà. Insomma, qui tutto quanto è di papà. Ma il problema, non ho niente da fare, tutto il giorno a comprare, comprare. Io profeta del moltiplicare, mi piacerebbe ogni tanto amare senza pagare.